A bordo campo di Dario Ricci. Vento in poppa oggi a bordo campo e davvero speriamo che questo vento ci spinga fino a Londra 2012, magari anche oltre, e soprattutto sull'ennesimo podio olimpico della nostra ospite d'eccezione di oggi qui a bordo campo a Radio 24. Benvenuta Alessandra Senzini. Ciao a tutti. E allora, Alessandra Senzini, leggenda della nostra vela, del nostro windsurf, 4 medaglie olimpiche consecutive, la più brillante l'oro di Sydney 2000, ma come dimenticare l'argento a Pechino 2008, i 2 bronzi Atlanta 96, Atene 2004, poi una montagna di titoli mondiali europei. A che punto siamo? Perché ho perso il conto, Alessandra. Tanti, perché ormai sono veramente tanti anni che faccio questo sport, ma diversi, 12 titoli mondiali, 5 europei, quindi insomma abbastanza. No, non siamo scaramantici, in questo caso il 17 porta bene, va bene, non diciamo niente. Non diciamo niente, però per entrare subito nel discorso che ci porterà poi a Londra 2012, c'è stato questo bronzo mondiale recentemente conquistato a Cadice che vale quanto un oro, no? In termini di motivazione, anche di spinta e di vento che ha messo nella tua vela, o sbaglio? Ma sì, sicuramente, perché l'ultimo mondiale non era andato tanto bene, il mondiale prima, insomma, e quindi per me questo era un mondiale molto importante dove avevo bisogno di confermare delle mie certezze, capire se il programma che stavo facendo andava bene, per cui insomma non ho avuto un bel inizio, perché il primo giorno ho fatto 2 regate sottotono, però poi mi sono ripresa e sono riuscita un po' a tornare come ai vecchi tempi, per cui sono uscita dal mondiale molto soddisfatta. E adesso si veleggia verso la 6ª Olimpiade, abbiamo ricordato il cursus honorum olimpico, quindi il podio è una piacevolissima abitudine, e Londra 2012 potrebbe anche non essere l'ultima, no? Ma questo è difficile, anche perché da poco purtroppo la Federazione Internazionale avrebbe indicato per il 2016 il kite al posto del windsurf, anche se insomma si spera che non sia una decisione definitiva, però comunque un'Olimpiade è un'Olimpiade diversa, è sempre difficile perché incontri sempre difficoltà nuove, per cui sarà sicuramente un'Olimpiade molto molto difficile. Tra l'altro ci saranno diversi atleti, diverse nazioni che insomma sono in grado di giocarsi una medaglia. Ecco, dal punto di vista del campo di gara, questo Weymouth dove regaterai, che difficoltà ti aspetti, che tipo di vento ti aspetti? Ma è un campo di regata dove può esserci un po' di tutto, da vento leggero a vento forte, quindi dovrebbe essere un campo di regata anche molto tecnico, dove insomma essere in grado di adattarsi velocemente e andare un po' con sapere andare con tutte le condizioni e dovrebbe essere importante. Poi è un campo che dove c'è anche una corrente molto forte, insomma sono diverse le cose che dobbiamo studiare bene, per questo io la prossima settimana proprio partirò per Weymouth per starci un po' di giorni e fare una regata proprio nel campo, sul campo di regata olimpico. Difficoltà e avversarie non mancano, ma viene anche da chiedersi che cosa, qual è la voglia e il desiderio ultimo che ti spinge sempre, sempre su quella tavola, sempre in mare. C'è quasi una donna anfibio, mi viene da dire, no? Forse l'elemento naturale è proprio l'acqua. Ma che alla fine faccio uno sport bellissimo, uno sport che ti dà un senso di libertà molto forte, grandi emozioni e poi insomma prima di tutto una passione, quindi sinceramente ci sono dei periodi dove sicuramente le motivazioni sono più basse, però insomma non fatichi tanto a trovarne di nuove per andare avanti. 42 anni, è vero che l'età delle signore non si dice, ma nel palmare... dell'atleta sì. Ecco, per un atleta ci siamo capiti, vale quanto una medaglia e testimonianza di quanta voglia c'è di rimanere al vertice. Campionessa a tutto tondo, come sentite, anche un'esperienza politica nel tuo palmarès, 2009 candidata alle europee nel PD, lo rifaresti oggi? Ma è sicuramente un'esperienza, è stata un'esperienza molto forte, molto importante, però dopo quell'esperienza lì sinceramente io mi sono ributtata nello sport, perché comunque ho capito che la mia vita rimarrà per sempre legata a questo ambiente e preferisco insomma vedere il mio futuro all'interno dello sport, ecco. Tra l'altro è anche una buona familiarità con i presidenti della Repubblica, perché ogni medaglia si torna al Quirinale, no? Per ricevere il saluto ufficiale del capo dello Stato, un rapporto particolare di simpatia con l'altro toscanaccio Carlo Azeglio Ciampi, no? Ma sì, ne ho incontrati diversi e è sempre stato un momento particolare, emozionante. Ciampi, insomma, livornese, no? Toscano come me, per cui insomma mi ha fatto molta simpatia. Ci si capisce al volo. Tornando per un attimo a Weymouth, avversari da cui guardarsi e con cui andrai a giocarti l'ennesimo podio olimpico, facci un po' di nomi. Allora, sicuramente l'israeliana, la polacca, la spagnola e l'inglese, queste sono le avversarie più temibili, però ci sono anche altre tipo la francese, la tedesca, che insomma sono subito lì dietro che insidiano. Senti, ma la sera prima della gara, svelaci qualche tuo rito, qualche tua mania, oppure quantomeno come si pensa a quel mare che diventa improvvisamente un cavallo imbizzarrito da domare? Ma guarda, il discorso è che noi, le nostre gare durano tanto, perché durano quasi 10 giorni e quindi sono tante serate che devi affrontare prima della gara successiva, e non è sempre facile. La cosa più difficile appunto è delle volte capire lo stato d'animo che stai vivendo e quello che ti serve per magari rilassarti, oppure magari in quel momento concentrarti, trovare una concentrazione più forte. Quindi questa è la difficoltà maggiore, è passare tutto questo periodo cercando sempre di ascoltarsi e capire di cosa si ha bisogno in quel momento, e non è mai uguale. Questo vuol dire spesso cioè hai una routine, però non puoi partire dal fatto che quello che hai fatto il giorno prima può andare bene anche il giorno dopo, ecco. Mai avuto paura di affrontare una gara o di affrontare il mare? Ma la paura c'è sempre, perché in ogni caso la paura serve anche per concentrarsi, stimolarsi, per essere sul pezzo, ecco. Quindi è importante che ci sia da una parte, però poi devi saperla trasformare nel momento in cui parti per la regata, cioè lo start, e da lì in poi non ce l'hai più, ecco. Saltiamo in un'altra imbarcazione, su tutt'altro tipo di vela. Ti convince questa nuova America's Cup? Ne abbiamo assaggiato una bella fetta tra Napoli e Venezia. Questa formula, queste imbarcazioni, che effetto fanno su di te? Che insomma di vela ne capisci, eh? Ma le imbarcazioni sono molto belle, sono barche molto veloci, molto tecniche, sicuramente diverse dai monoscafi. La vela un po' in generale sta andando verso più spettacolarità, no? Per cercare appunto di attrarre sempre di più media e sponsor, perché poi fondamentalmente sono due cose fondamentali per poter fare lo sport. E